Grazie. Quando abbiamo iniziato, Marco mi ha detto: guarda che io non ho un programma preciso, vediamo come va. E io gli ho detto: ok, basta che ti ricordi che dovevo andare a mangiare. Questa è tutta, diciamo, la mia profondità spirituale. Però vogliamo veramente ringraziare il Signore per non essere attaccati agli schemi, a un modo di fare, ma ricevere in libertà quello che Lui ci vuole dare. Amen? Amen. Ok. E continuiamo il nostro viaggio in Filippesi. Per chi non l'ha ancora preso, lì sui contenitori al lato c'è il foglietto per le note. Questo è particolarmente importante perché sono le note del messaggio di questa mattina. Quindi se volete seguire il messaggio e non avete il foglietto, potete prenderlo. Giusto per capire quello che andiamo a fare, abbiamo preso l'impegno da domenica scorsa fino a settembre di dedicare il nostro incontro della domenica mattina ad appropriarci di tutte le benedizioni che sono nella lettera ai Filippesi. Questo ce lo ricordiamo, sì? Sì. E domenica scorsa il pastore ci ha introdotto alla lettera ai Filippesi facendo un excursus di tutta la lettera e mostrandoci quelli che sono i quattro pilastri della nostra vita, o meglio, della nostra vita nel vivere in Cristo. Ce li ricordiamo? Io già vi ho aiutato che abbia detto che sono quattro. Vediamo, il primo qual era? Non si vince niente, quindi potete stare tranquilli. Qual era il primo pilastro? Una prospettiva eterna. Esattamente è stato detto che se noi viviamo solo per oggi, possiamo anche finire di vivere domani, ma perché abbiamo una prospettiva eterna, questo dà valore alla nostra vita. Numero due, non ho capito, valorizziamo gli altri, la nostra vita assume valore quando noi diamo valore agli altri, e questo è proprio in antitesi a tutte le politiche di questo mondo, dove noi siamo al centro e gli altri devono servirci. L'Evangelo dice che noi siamo servi gli uni degli altri, e gli uni siamo noi e gli altri sono gli altri. Numero tre. Dovete gridare perché non sento. Conoscere Cristo. E beh, se vogliamo una prospettiva eterna e vogliamo servire gli altri con un servizio che abbia valore, lo possiamo fare solo e unicamente attraverso l'esempio di Cristo nella nostra vita. Quindi conoscerlo dà valore alla nostra vita. E se vogliamo viverlo, dobbiamo conoscerlo. Poi l'ultimo. No, non facciamo confusione, una alla volta. Affrontare ogni cosa con Lui. Insomma, per ordine sparso, però ci siamo arrivati. Affrontare ogni cosa con Lui. Bene, se questo è stato l'antipasto, potete immaginare che cosa ci aspetta durante tutta la lettura degli Efesini. Questa mattina vogliamo iniziare a leggere il versetto 1. Il tema di questa mattina è l'identità in Cristo, e in maniera più specifica la mia identità in Cristo. Filippesi capitolo 1 versetto 1. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo. In Cristo Gesù, che sono in Filippi con i vescovi e con i diaconi, grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Questa è l'intestazione della lettera. Questo sarebbe, diciamo, il timbro che sta all'inizio della lettera per farci capire chi ci ha scritto, se è a noi veramente questa lettera. E nell'intestazione Paolo, l'Apostolo Paolo, rivela la sua identità. Ora dovete capire bene che non è che Paolo abbia detto servo di Cristo Gesù perché non aveva altro da dire. Potete andare a guardare al capitolo al capitolo 3, il versetto 8, tutta l'identità che era nella vita di Paolo, ma lui nell'intestazione ha scelto servo di Cristo. E l'ha scelto perché probabilmente per lui era la cosa più importante. Aveva tante altre cose a cui, di cui appellarsi, tante altre medaglie da mostrare. Lui ha scelto quella di servo di Cristo e ha indirizzato la lettera a tutta la chiesa di Filippi. Però in particolare a vescovi, diaconi, a tutti i santi. Quindi questo significa che la parola di Dio ha un indirizzo specifico, ha un indirizzo preciso, e questa parola questa mattina ha un indirizzo preciso, che è quello del cuore tuo. Prima non è che io stavo pensando ai fatti miei durante la lode e l'adorazione, però durante la lode e l'adorazione ho pensato, ho detto: Signore, Tu hai preparato questa domenica mattina nel cuore Tuo dall'eternità. Cioè, quello che sta succedendo qui questa mattina, quello che io dirò, quello che tu ascolterai, la tua presenza qui, non è qualcosa che può succedere o può non succedere, o vediamo come va. È qualcosa che Dio ha pensato. È qualcosa che Dio ha visto, è qualcosa che Dio ha preparato. E questo è il modo come noi dobbiamo approcciarci a questa mattina, alla parola di Dio. E se mi permettete di allargare la visuale, a ogni giorno della nostra vita. Perché Dio lo ha preparato. Dio non sarà sorpreso di quello che succederà domani o dopodomani. Lui lo sa. E se noi non vogliamo essere sorpresi, è meglio che lo viviamo con Lui. Ma questo è un altro messaggio. Comunque, l'identità in Cristo, l'identità, la nostra identità, la mia identità in Cristo, questo abbiamo letto che parla di servi, di diaconi, di santi, quindi è molto molto importante che noi capiamo chi siamo. Qual è la nostra identità? Che detto così sembra, dice, ma sei proprio scemo, come non lo sai chi sei? Eh sì, lo so chi sono, ma molte volte non lo so chi sono. O devo scegliere chi sono. E nei momenti in cui scelgo chi sono, è importante che io faccia la scelta giusta, come la scelta che ha fatto Paolo di presentarsi come servo. Rende urgente il valore che vogliamo dare alla nostra vita in stretta relazione con la conoscenza reale, profonda, vera della nostra identità. Ora, come definiamo l'identità di una persona? In maniera generica, vediamo se è maschio o femmina, vediamo se da dove viene, vediamo più o meno dall'aspetto quanti soldi ha, poi guardiamo l'anello al dito se è sposato o meno, insomma definiamo la nostra identità da quello che vediamo, da quello che fa. Noi, che fai tu? No, io sono cavaliere del... Cavaliere, com'era quello? Cavaliere di Malta. Io sono cavaliere di Malta. Cioè, ah, bravo, sei cavaliere di Malta. Senza sapere neanche che cosa significa. Però la sua identità è quella di cavaliere di Malta. Ora, nel foglietto che voi avete, c'è la domanda: cosa determina l'identità? E nella parte di sinistra c'è quello che determina, che possiamo scoprire attraverso l'Evangelo, dell'identità di Gesù in quello che faceva, in quello che pensava, nelle circostanze che ha affrontato, quello che le circostanze dicevano di lui e anche quello che gli altri hanno detto di lui. E dall'altro lato ci sono delle righe vuote. Ebbene, in quelle righe, magari non adesso, ma con calma, puoi andare a scrivere, rispondendo alle stesse domande, qual è, che cosa determina la tua identità. Iniziamo a vedere di Gesù. E lo vediamo chiaramente attraverso quello che la Bibbia dice. In Atti, al capitolo 10, al versetto 38, Luca, come dire, racchiude così la storia di Gesù. Dice, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e come gli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti. Facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Qui si vede chiaramente quella che è l'identità di Gesù. Qualcuno che andava attorno facendo del bene a tutti. Sull'altro rigo, non dimenticare di scrivere la tua. Io sto ancora elaborando. Quello che le circostanze dicevano di Gesù. Matteo 24, 27, 54. Qui siamo nel quadro della crocifissione di Gesù, è scritto il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero veramente costui era il figlio di Dio. Le circostanze ci parlano di Gesù, le circostanze che vivi parlano di te. Lì devi andare a vedere quella che è la tua identità. Perché tu puoi pensare di essere un cavaliere di Malta, ma se non c'è il cavallo devi andare a rivedere se sei un cavaliere di Malta. Di Gesù i centurioni, quindi delle persone pagane, delle persone che lo avevano crocifisso perché lui aveva detto che era il figlio di Dio, hanno dovuto riconoscere veramente costui era il figlio di Dio. Quello che gli altri dicono di lui. La tua identità anche in quello che gli altri dicono di te. Quello che dice tua moglie, quello che dicono i tuoi figli, quello che dicono i tuoi colleghi, quello che dicono i tuoi amici. È un po' come quando si fa il brodo. Quando fai il brodo, sai, viene la schiuma, poi togli la schiuma, ma il brodo rimane. Allora tu togli la schiuma, tutto quello che viene detto, ma qualcosa di reale rimane. Quello che gli altri dicono di te, qualche volta esagerato, però in fondo un filo di realtà c'è dentro. Prova ad ascoltare. Che cosa dicevano di Gesù? Anzi, Gesù è lui che ha detto... Ma domandò loro ai discepoli, e voi chi dite che io sia? E Pietro gli rispose, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E dire una cosa del genere era rischiare la vita. Riconoscere Gesù come figlio di Dio significava rischiare la propria vita. Non sono parole dette alla leggera. La percezione che noi abbiamo della nostra identità è molto importante. È molto importante perché in funzione di quello che noi pensiamo di noi stessi, crediamo di essere, noi faremo le nostre scelte. E non sto parlando delle scelte, sto parlando delle scelte quotidiane, sto parlando proprio delle scelte di ogni giorno. In funzione di quello che tu pensi di te stesso, fai le scelte. È molto importante che noi ci rendiamo conto che cosa pensiamo di noi stessi. E questa è una domanda a cui solo tu puoi rispondere. Questa è una domanda che tu sai nel cuore tuo, che cosa pensi di te. E sapete quante volte io mi sono spaventato di quello che io pensavo di me? Succede ancora, succede sempre un po' meno, ma succede. E quello che noi pensiamo della nostra identità è veramente importante. Provate a pensare un momento Qual è stata la prima cosa che il diavolo ha messo in discussione quando si è confrontato con Gesù? È stata la sua identità. Lo leggiamo in Matteo, al capitolo 4, al versetto 3. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, se tu sei il figlio di Dio. Quindi era di fondamentale importanza per il diavolo quello che Gesù pensava di sé. Le cose non sono cambiate. È di fondamentale importanza per il diavolo, così come per Dio, quello che tu pensi di te. Quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente prezioso, a cui dobbiamo guardare con attenzione e dare delle risposte. Ma anche se ritorniamo all'inizio proprio, al giardino, nel giardino dell'Eden, qual è stata la tentazione che il diavolo ha messo davanti ad Adamo ed Eva, se non quella di avere un'identità diversa da quella che Dio gli aveva dato? Dio li aveva messo in paradiso, dove noi vogliamo andare, loro già stavano. E il diavolo gli ha detto: ma veramente tu pensi che sei arrivato dove dovevi arrivare? C'è di più. Ed è l'eterna ricerca che sta nel cuore nostro, quel di più, quel salto di qualità. Ecco perché è importante che noi capiamo qual è la nostra identità. No, non meriterete affatto, gli ha detto il diavolo in Genesi 3 al versetto 4, ma Dio sa, cioè Dio sa, voi non lo sapete, che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Quanti di noi aspirano a qualcosa, a un'identità diversa di quella che hanno? Quanti di noi hanno rimpianto di se io nascevo 10 anni fa, o nascevo fra 10 anni, o nascevo in America, o mio padre invece di essere Viale Antonio Walter era Bill Gates? Questo significa non credere e non appropriarsi e non dare valore alla propria identità. Perché guardate come questa mattina è scritta nel cuore di Dio dall'eternità. Quello che tu sei è quello che io sono. Il giorno che sono nato, la famiglia dove sono nato, era scritto ed è scritto nel cuore di Dio dall'eternità. Hanno lo stesso valore. Amen. Però ci sono tante cose che cambiano la nostra identità, la rendono liquida. Mo è di moda questa parola, è liquida. E ci sono tante cose veramente che influiscono nella nostra identità. Noi possiamo diplomarci, possiamo laurearci e quindi davanti al dottor, ragionier, avvocato, eccetera, cambia la nostra identità, e questa è una cosa positiva perché noi possiamo far crescere la nostra identità, non la possiamo cambiare ma la possiamo far certamente crescere. Ci sposiamo e cambia la nostra identità. E tutte queste cose non soltanto cambiano la nostra identità, ma cambiano anche il nostro modo di vivere, cambiano le nostre relazioni, il nostro modo di relazionarci l'uno con l'altro cambia. Cioè, Noemi non può più comportarsi come si comportava 2 anni fa. Perché? Perché a fianco c'ha suo marito. Io non posso più fare il vacantino. C'è mia moglie. Cambia la nostra identità. E ci sono dei cambiamenti che noi scegliamo e ci sono dei cambiamenti che ci cadono addosso. Per esempio una malattia. Tu ti svegli la mattina che ti fa male la pancia e scopri X. Cambia il tuo modo di vivere. Forse dovrai eliminare gli zuccheri o dovrai eliminare i grassi. ma cambia il tuo stile di vita. E poi ci sono delle cose che ti capitano. Nell'ultimo periodo a me sono successe un sacco di cose, iniziando dall'incidente che ho avuto 3 anni fa, cioè non me ne è andata una come avrei desiderato. L'anno scorso ho perso il lavoro e sono stato diversi mesi senza lavorare. E questo significava affrontare delle difficoltà. E questo ha messo in discussione la mia identità. Mi ha messo in difficoltà. Perché mentre prima mi alzavo e andavo al lavoro, ci sono state delle mattine dove non mi volevo nemmeno alzare perché non avevo il coraggio di affrontare la giornata. E queste sono cose che ci capitano. E non ci possiamo defilare da questo. Perché? Perché siamo vivi. Ecco perché tanta gente pensa di ammazzarsi, per non affrontare più le cose che fanno parte della nostra vita. Ed ecco perché noi dobbiamo, come abbiamo detto prima, imparare ad affrontare le cose con Gesù. E sapete che cosa mi ha aiutato in questo periodo abbastanza lungo? Di senza lavoro, difficoltà economiche, puoi essere disoccupato, puoi andare a fare un lavoro che non sapevi neanche che cosa stavi facendo e poi trovare un nuovo lavoro e iniziare da zero. Mi ha aiutato a ricordarmi che il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Lì ho trovato quella parte di identità che rispondeva a quei bisogni, che rispondeva a quella sofferenza. E non era qualcosa che era come quando prendi l'occhi, che prendi l'occhi, ti fa male la testa, prendi l'occhi e ti passa. No, è qualcosa che ti inizia ad appartenere, perché tu ti rendi conto che c'è qualcosa di più della difficoltà del lavoro, o della malattia, o di tutte le altre cose. Però la domanda è questa, ragazzi, e io vi prego di essere attenti e di essere responsabili riguardo a quello che andiamo a dire adesso. Se la nostra identità è così mutevole, che ci può capitare una cosa da un giorno all'altro che non possiamo neanche prevedere, che cosa ci assicura veramente che noi possiamo mantenere, nonostante tutte le circostanze, la nostra identità in Cristo? C'è qualcosa che lo può rendere certo, sicuro, fermo? Perché le cose cambiano. Però l'Apostolo Paolo ha detto: servo di Cristo. E stava in prigione. Non è chiesto Paolo prigioniero, qualche altra volta l'ha messo, però in questo caso non l'ha messo. Servo di Cristo. È possibile per noi conservare e vivere quotidianamente, al di là delle circostanze, al di là dei problemi, al di là delle difficoltà, la nostra identità in Cristo? Ora noi possiamo rispondere sì, certamente, perché sopravvalutiamo il nostro essere qui, ma dobbiamo avere la certezza che questo è vero, dobbiamo avere la sicurezza che questo è vero, altrimenti prendiamo in giro noi stessi. Beh, io ho trovato la risposta a questo guardando la mia nuova carta d'identità, che voi vedete proiettata dietro. Lì ci sono i miei dati, la mia data di nascita, c'è tutto, c'è la mia foto nella quale più andando avanti meno assomiglierò a quella foto. E chiaramente ci sono delle cose che possono cambiare, perché mo sta scritto segni particolari, bellissimo, poi scriveranno qualche altra cosa. Operaio e poi scriveranno pensionato, Quindi cambierà. Ma sapete, in quella carta d'identità c'è qualcosa che non cambia mai. Lì c'è la mia impronta digitale. Quanti di voi sono andati a fare la carta d'identità elettronica? Vi hanno preso l'impronta digitale anche a voi? E sapete, quell'impronta digitale non cambierà mai. Tutto potrà cambiare, fuorché la data di nascita, però parecchie cose possono cambiare. Ma quell'impronta digitale non cambierà mai. Anzi, tu puoi morire subito dopo morto, possiamo andare a chiedere a Nino dopo, ti possono ancora riconoscere dall'impronta digitale. Sapete cosa c'è di bello? Che c'è l'impronta digitale sulla mia e sulla tua vita. Sulla mia e sulla tua vita c'è l'impronta digitale di Dio, e questo non cambia mai. Come quell'impronta digitale che è sulla carta d'identità, sulla mia e sulla tua vita c'è l'impronta digitale di Dio che non cambia mai. Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Questa è l'impronta che Dio ha messo là sulla mia vita, la sua impronta digitale. È Lui che ha detto: tu sei mio figlio. È Lui che ha detto: tu sei mio figlio. E in Malachia, al capitolo 3, è scritto: io sono il Signore, non cambio. Per questo motivo, tu e io possiamo aspirare ogni giorno ad avere il pieno controllo della nostra identità in Cristo. Perché? Perché siamo figli di Dio, e questo non potrà cambiare mai. Nei momenti più difficili dell'anno scorso, questo è quello che mi ha dato la speranza, questo è quello che mi ha dato il coraggio di alzarmi la mattina. E questa è un'identità che noi dobbiamo custodire, ed è l'identità a cui dobbiamo fare riferimento nelle nostre scelte quotidiane, perché noi possiamo scegliere in funzione di quello che noi pensiamo di noi stessi e in funzione delle circostanze, ma noi possiamo scegliere anche in funzione del fatto che siamo figli di Dio, e questo cambia le cose. Questo cambia le cose, ed è per questo che il Signore ha detto: tu sei mio figlio, ricordati che tu sei mio figlio. E questa è un'identità molto importante che noi dobbiamo custodire, difendere, appropriarci, fare riferimento, almeno per tre ragioni. È un'identità divina. Dio ce l'ha data. È un'identità divina. Dio ce l'ha data. Tutto passerà. Ma il fatto che tu e io siamo figli di Dio rimarrà in eterno. Noi saremo con Lui. Tu e io sulla terra possiamo guadagnare tutto quello che vogliamo, tutti i meriti, tutte le onorificenze, li lasceremo qua. Avete mai letto i manifesti? Già cavaliere del lavoro, li lasceremo tutti qua, ma questa identità ce la portiamo con noi per l'eternità. È un'identità eterna. È un'identità eterna. È un'identità divina, è un'identità eterna. Terzo, è un'identità che è costata la vita di Gesù. Molte volte le cose non sono preziose per il valore che hanno in sé, ma sono preziose per il sacrificio che abbiamo fatto per conquistarle. Gesù ha dato la sua vita per me e per te, per darci questa identità. Che cosa mi garantisce avere questa identità? Beh, la vita eterna. Il buon fine. In Filippesi leggeremo più avanti: quello che ha iniziato un'opera buona è fedele da portarla a compimento. Perché? Perché ha messo la sua impronta digitale sulla tua vita. Questa impronta ci dà la caparra dello Spirito Santo. Questa identità ci conferma che noi siamo al sicuro. In Giovanni al capitolo 10 è scritto che nessuno ci rapirà dalla mano di Dio. Nessuno ci rapirà dalla mano di Dio. Perché? Perché siamo figli suoi. Questo lo voglio leggere. Giovanni 10, 27. Le mie pecore, i miei figli, ascoltano la mia voce. E io le conosco, ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. La nostra identità in Cristo. Forse questa mattina la dobbiamo riscoprire. Sapete al lavoro che cosa succede? Al lavoro c'è un lettore dell'impronta digitale che tu, quando entri la mattina, devi metterci il dito sopra, e quello ti dice grazie quando va bene, ed esce la spunta verde. Quando non va bene esce la spunta rossa, riprovare. Sapete quante volte sono arrivato lì, soprattutto alla fine della giornata? È la prima volta, la seconda volta, la terza volta. Non mi riconosceva. Io ero io, ma non mi riconosceva. Può darsi che questa mattina tu non ti riconosci. Può darsi che devi andare a rispolverare. Al lavoro, sapete che faccio quando fa così? Vado di nuovo in bagno, mi spruzzo un poco di detergente, lo pulisco bene il dito, vado sopra e funziona. Forse questa mattina hai bisogno di spruzzare sul tuo cuore un poco di detergente per riscoprire l'identità che Dio ti ha dato. O forse non hai mai avuto l'identità di figlio di Dio perché non l'hai mai riconosciuto nel tuo cuore come tuo salvatore. A te sta la scelta. Gesù è già andato sulla croce, non può andarci di nuovo, e ha detto: chiunque mi riconosce, gli do il diritto di diventare mio figlio. Ora tu puoi avere il bisogno di riscoprire o di aprire il tuo cuore per diventare figlio di Dio. Tu lo sai, ma comunque questo ti darà un'identità che nessuno potrà più toglierti. Ti darà un'identità tua per sempre. Ti darà un'identità che ti permetterà di fare le scelte giuste. Ti darà un'identità per cui tu potrai guardarti allo specchio e dire come me: nonostante tutto, io sono un figlio di Dio e Dio mi ha scelto e io devo dare valore a quella scelta. Io vorrei che noi potessimo pregare adesso. Voglio invitarvi ad alzarvi in piedi e potessimo prendere qualche minuto per noi stessi, per fare quello che dobbiamo con quello che abbiamo ascoltato. Per dare valore a questa mattina. per dare valore al sacrificio di Gesù, per dare valore alla nostra vita. Paolo, servo di Cristo. Stefano, servo di Cristo. Ognuno di noi, servo di Cristo. Questo fa la differenza. Signore Gesù, vogliamo ringraziarti per quello che tu hai fatto per noi. Tu hai messo la tua impronta digitale sulla mia vita. Tu hai messo la tua impronta digitale sulla nostra vita, affinché noi potessimo essere figli tuoi. Signore, aiutaci a vivere da figli tuoi. Signore, la mia preghiera per me stesso e per ognuno di noi è che noi possiamo, nelle circostanze che cambiano, nelle cose che succedono, come quelle pecore che hai descritto, sentire la tua voce. La tua voce è al di sopra di ogni altra voce. E quando l'abbiamo riconosciuta, Gesù, dacci la forza per essere obbedienti, per essere quei figli tuoi che danno gloria al tuo nome. Ti benedico, Gesù, e ti ringrazio. Nel nome di Gesù. Amen.